Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti schei? 24 mattino. Signori, le metafore di Bersani qui stanno spopolando, perché da quando ho iniziato questa rubrica alle 6.30 nel nostro Parlamento, l'ultima è ce n'è da far l'orlo col Po. Com'è? Come dice mia nonna. Eccolo là, vai. Ce n'è da far l'orlo al Po. Ce n'è da far l'orlo al Po. Questo è vuol dire che c'è tanto da fare. Questo almeno è quello che dicono i nostri ascoltatori. Ce n'è da tanto da fare, far l'orlo al Po. Urca ragazzi, vabbè, le metafore di Bersani. Ma questo è lo spazio dedicato alla rassegna stampa. La rassegna stampa vale a dire la lettura dei giornali di 24 mattino. Andiamo, caro Peter. Adesso Alessandro Milan vi leggerà il giornale. Dai, pronti? Sentiamo cosa è successo oggi, dai. Andiamo Milan, andiamo, dai. Mercoledì 29 marzo, intanto i titoli. L'apertura del Sole 24 Ore riguarda la pubblica amministrazione, dalla scuola alla sanità, in vista 80.000 assunzioni, dalla riforma del pubblico impiego 50.000 stabilizzazioni in 3 anni. Avanti che c'è posto. Libero, lo metto per contrasto, proprio ce l'ha col ministro dell'istruzione Fedeli, che chiede nuovi prof 25.000, per favore cacciatela. Questo è il titolo di Libero. La titolare dell'istruzione si scorda di essere ministra e continua a farla sindacalista della CGIL. Ma poi uno dei titoli più gettonati è la Brexit. Brexit al via, ma senza muri, così il Corriere della Sera. La Stampa invece, Brexit il giorno del divorzio. Il Messaggero, Brexit al via, strappo della Scozia. Il Giornale, oggi la Brexit, ecco cosa succede in Italia. Repubblica invece, tagli a spese e detrazioni, ecco il piano per Bruxelles, il programma di riforme dal catasto al cuneo fiscale. Ma io voglio ripartire dalla cronaca di Alatri, perché è davvero impressionante. Oggi il titolo di prima pagina del Giorno è le iene, nel senso, vengono messi i due fermati per l'omicidio di Alatri, questo che invece ha inseguito la ex tamponandola e aveva fatto delle minacce. Le iene è anche il padre killer di Trento che ha ucciso 2 figli e poi si è tolto la vita. Ma soprattutto questa di Alatri è una vicenda che nella cronaca brutale che ora si comincia a ricostruire, e per esempio leggete il Messaggero a pagina 7, questa notte di sangue, nel racconto di Raffaella Troili, Emanuele inseguito e colpito senza pietà, si comincia a ricostruire proprio la serata di Emanuele Morganti, ragazzo ucciso all'esterno del locale di Alatri, dove mette davvero anche un po' di angoscia, di ansia. Scoppia la rissa, calci e pugni all'interno del locale perché un ubriaco si avvicina strattonando Emanuele. Il locale si divide in due, qualcuno scappa fuori, altri cercano di separarli, anche un buttafuori. Armando, biondo albanese e un altro italiano, i tratti scuri. Sono grandi e grossi, vestiti di nero, gridano al banco, arrivano i rinforzi. E si accaniscono solo su Emanuele, lo prendono per il busto, lui si dimena, la maglietta si strappa, lo portano in un angolo del locale, lo prendono a calci e pugni e lo trascinano fuori con la forza, tutti contro uno. Emanuele non ci sta, continua a gridare, ce l'ha con chi dovrebbe proteggerlo nel locale, lo sta malmenando, il sangue già gli esce dalla bocca. Gli dice uno dei buttafuori: attento, quelli sono pericolosi. Il locale è fuori controllo, fuori c'è un gruppo di albanesi amici di Paolo Palmisani, uno dei due fermati per l'omicidio. Li conoscono tutti perché danno fastidio ai clienti e la lite continua fuori, i 4 buttafuori non lo mollano. Emanuele ripete: non sono io che ho dato fastidio. Ad aiutarlo accorrono 3 amici, provano a difenderlo. Ma Paolo Palmisani e Mario Castagnacci, l'altro fermato per l'omicidio, hanno già infierito prendendo a schiaffi Emanuele. C'è anche uno più grande, 50enne, il padre di Castagnacci, che non si sperticherà per dividerli, anzi. Comunque Emanuele si divincola e scappa, ma il branco di strafatti ha deciso di dargli una lezione. Gli butta fuori, gli arrestati lo rincorrono, viene strattonato, colpito alla testa, colpito con un manganello, colpito con una chiave a L di quelli che si usano per sbullonare le ruote. Qualcuno voleva andare anche a prendere la pistola in macchina. E quando è a terra viene continuamente colpito finché appunto non dà segnali di vita. Anche, racconta il messaggero, all'arrivo di Carabinieri 118, lo sfregio finale con coloro che lo hanno ucciso, che vengono sentiti dire: l'abbiamo tolto di mezzo, l'abbiamo ammazzato, ridendo. Non so, adesso tutti raccontano profili di questi due fermati, i fratellastri, tutti in paese dicono si sapeva che picchiavano, si sapeva che partecipavano a risse, strafatti, ubriachi. È davvero il racconto del male, non c'è altro modo per definirlo. Vabbè, trovate invece, se vogliamo saltare una notizia di cronaca molto ben sviluppata sui giornali oggi, la vicenda della TAP, o del TAP, questo acronimo per Trans Adriatic Pipeline, cioè il gasdotto, o meglio l'insieme di gasdotti che partono dal confine della Turchia-Grecia, dove si agganciano tra l'altro a un altro, al Trans Anatolian Pipeline, per poi attraversare il nord della Grecia, l'Albania, l'Adriatico, infine devono approdare nelle coste pugliesi. È un progetto che serve a garantire energia, fabbisogno energetico all'Italia. Ma io ricordo che chiamai Michele Emiliano, lo chiamammo circa un anno fa, e già disse: non deve approdare lì a Melendugno. Non siamo, questa almeno è la posizione di Emiliano, contro questo progetto, ma siamo contro al fatto che questo progetto abbia uno sbocco in quella zona di costa pugliese. Ora, il progetto però è stato approvato e nel momento in cui si va a iniziare i lavori, ecco che ci sono le tensioni e le proteste, come Domenico Palmiotti racconta, l'ha fatto anche il giornale radio, lo fa anche sul Sole 24 Ore, ma tutti i giornali si concentrano su questo no al gasdotto. È che io una cosa però non sopporto: tutti i giornali che dicono in difesa di 211 ulivi, ma gli ulivi in questo caso non c'entrano nulla, non è che devono eradicare gli ulivi, li spostano, non è che questi ulivi, nessuno fa la bua a questi ulivi, vengono espiantati e vengono ripiantati da un'altra parte e poi verranno ripiantati lì, cioè non è, quindi gli ulivi staranno benissimo. Sicuramente c'è invece la questione di chi si oppone all'opera e al fatto che debba avere questo tipo di sbocco, e infatti Emiliano ribadisce: non siamo contro l'opera, o meglio non sono contro l'opera, ma un dolore enorme per i sindaci trovarsi davanti a manganelli. E per chi con le forze dell'ordine ha sempre lavorato come me, è stato un dramma constatare che per obbedire agli ordini quegli uomini in divisa siano dovuti entrare in contatto fisico con i sindaci e i cittadini per colpa di politici che non ascoltano. Michele Emiliano dice: non vogliamo che lo sbocco sia lì. Gli risponde in qualche modo il ministro all'ambiente, Galletti, che intervistato dal Corriere della Sera dice: Emiliano, mi aspetto che rispetti lo Stato. E difende invece quest'opera Galletti, dice: è un'opera strategica. Questo è intervistato dal Corriere della Sera. Vabbè, il dibattito su questo. Ma invece mi ha colpito questa notizia di cronaca che trovate sul Giorno. Attenzione signore e signori, pagina 11, l'eterologa all'insaputa del marito. Bisogna aggiornare la lista, c'è la fecondazione eterologa all'insaputa del marito. Tra l'altro ora la Cassazione dice: guardate che questo è equiparabile a un tradimento. Di che cosa si tratta? È una vicenda di questo tipo. Marito e moglie hanno un figlio, e vabbè, fin qui nulla, poi si separano. Quando si separano, l'uomo si risposa, tenta di fare un altro figlio con la nuova compagna, ma il medico gli dice: guardi che lei non può procreare. A quel punto il marito dice: e come? Io ho già avuto un figlio. Disorientato per la precedente paternità, chiede spiegazione alla ex moglie e la ex moglie gli confessa questo: mi sono sottoposta alla fecondazione eterologa all'epoca, senza dirtelo. Al che lui fa causa e la Cassazione gli dà ragione: è equiparabile al tradimento e dunque il coniuge separato può chiedere il disconoscimento del primo figlio. Non importa se l'ha avuto, se l'ha cresciuto, eccetera, può riconoscere il disconoscimento. Matteo Massi racconta tutto sul Giorno a pagina 11. L'eterologa all'insaputa del marito, la Cassazione dice è tradimento. Va bene, ma siamo all'articolo, meglio gli articoli che raccontano questa vicenda che mi fa storia della giornata. Io veramente non, ma mi chiedo a che punto siamo arrivati. È una vicenda accaduta in provincia di Torino, dove due sceriffi della strada, come sono stati definiti da alcuni, hanno fermato con tanto di orgoglio un'ambulanza che correva contromano. Contromano, quindi dal punto di vista del codice della strada, l'ambulanza certo ha compiuto una violazione, ma stava portando una persona in fin di vita all'ospedale e questi due l'hanno fermata l'ambulanza. Non si fa così, scendete, favorite la patente. E poi su Facebook hanno inneggiato alla loro buona azione, secondo loro, dicendo vergogna, vergogna, questa ambulanza voleva andare in contromano. Questi due, Non voglio aggiungere querele su querele, che già me ne sono arrivate. Questi due signori, in nome della legalità, che hanno bloccato l'ambulanza, gli sceriffi fai da te contro l'ambulanza. Oggi, giustamente, a loro è dedicato il caffè di Massimo Gramellini. Sparare sulla Croce Rossa, prima pagina del Corriere della Sera. Nei pressi di Torino c'è un'ambulanza con un paziente grave a bordo che, per evitare l'ingorgo, in bocca sirene spiegate una strada contromano. Ma ecco che due Batman di borgata le si parano davanti come a un posto di blocco. Il codice della strada è uguale per tutti, uno vale uno. E per addolcire il rigore dei nuovi giacobini non basta che quell'uno abbia un camice bianco, una croce rossa dipinta sulla fiancata, un malato rantolante a bordo. Nel nuovo mondo della rabbia, che rende ottusi, l'autorità e l'istituzione sono per definizione inaffidabili. Favorisca la patente, chiedono all'autista. E tra l'altro l'autista, pur di non perdere tempo, fa retromarcia, si rimette in fondo all'ingorgo, arriverà in ritardo, il malato si salverà solo per il rotto della cuffia. Ma i due giustizieri su Facebook issano lo scalpo fotografico commentando euforici: vergogna, vergogna l'ambulanza. Sembra un selfie dell'Italia 2017. Un malato grave a bordo di un'ambulanza che cerca di destreggiarsi nel traffico rischia di crepare per eccesso di zelo da parte di chi, sentendosi dalla parte giusta, si irrigidisce nel rispetto presunto delle regole, senza capire che la sua testa prevenuta è un cimitero di astrazioni, mentre dentro l'ambulanza c'è quel che rimane della vita, anche della sua. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia! Milan, quante chiacchiere che dite al mattino! Vabbè, siamo anche pagati per quello, per chiacchiare, per parlare, spesso a vanvera nel caso di Peter Bescapè, che sta lì in regia, molto spesso nel caso di Lorenzo Nespoli, quasi sempre nel caso di Elisabetta Fusconi, mentre insomma invece io e Oscar Giannino diciamo parole precise. Bello, perché mi guardano, mi odiano, non possono dire nulla, sono in una sala insonorizzata, quindi così chiuso col lucchetto. E vabbè, allora signori, la rassegna stampa continua con l'immigrazione. C'è il nuovo piano raccontato dal Corriere della Sera e dal Messaggero, portato avanti dal ministro dell'Interno Minniti. I nuovi centri di identificazione e espulsione, Minniti avvisa le regioni, troviamo l'intesa o avanti. Comunque, pagina 5 del Corriere della Sera, leggo da Fiorenza Sarzanini. È il piano voluto da Minniti con una linea tracciata, rimpatrio degli irregolari e snellimento delle procedure per chi invece chiede asilo. Il numero delle persone sbarcate nei primi tre mesi del 2017 continua a salire, ormai l'incremento sfiora il 60% rispetto ai dati del 2016. Siamo oltre a 23.000 arrivi. Per questo, dice Minniti, abbiamo deciso di procedere in meno di tre mesi e ci siamo concentrati sui punti chiave del sistema: la creazione dei centri di identificazione per chi deve essere espulso sparsi su tutta la penisola e il fatto che i rifugiati debbano essere accolti per non più di sei mesi e soprattutto possano lavorare e dunque integrarsi nella comunità. Su questo punto del lavoro e alle polemiche Minniti ha già risposto: si tratterà di attività socialmente utili, non retribuite e volontarie, finanziate dalla comunità europea con fondi destinati solo a questo scopo. Tra l'altro, i nodi da sciogliere sono parecchi per quel che riguarda le regioni e i nuovi centri di identificazione. Le resistenze dei presidenti di regione sono forti, hanno già detto sì Lombardia e Veneto. Oltre 40 comuni dell'Emilia-Romagna hanno già fatto sapere che metteranno a disposizione alcuni centri. Certo, ci sono regioni in cui si va a votare che sono un po' più restie, ma su questo Minniti dice: o troviamo l'intesa o andiamo avanti comunque. Quindi rimpatri veloci, non più di sei mesi qui e possibilità di lavori socialmente utili. Questo è il, in sintesi, il piano di Minniti. Oh, invece c'è un piano sul pubblico impiego che viene ben dettagliato da Gianni Trovati e Claudio Tucci oggi a pagina 3 del Sole 24 Ore. È chiamata la carica delle 80.000 assunzioni. In arrivo fino a 32.000 posti aggiuntivi per scuola e comuni, anche se il ministro dell'istruzione Fedeli ieri ha detto con una lettera al ministro Padoan: se non mi date le risorse dobbiamo saltare questa infornata di assunzioni. Scrive il Sole: mentre la riforma della pubblica amministrazione all'esame del Parlamento promette di rivoluzionare il sistema delle assunzioni pubbliche, abbandonando la vecchia pianta organica per misurare i nuovi ingressi sulla base di fabbisogni effettivi, cresce alle porte della PA la pressione per salire sull'ultimo treno del turnover aziendale. Nei rami principali del settore pubblico si possono stimare quest'anno tra le 80.000 e le 95.000 assunzioni, con il numero definitivo che dipende da come si assisteranno le mosse nei due comparti dove è più forte la pressione per i nuovi ingressi. La scuola innanzitutto, come primo comparto, e i comuni che attendono un intervento su misura per loro. 80-95.000 assunzioni, chissà se hanno giocato tutti a calcetto. Vabbè, dai, adesso la battuta è scontata, la battuta c'è e la battuta d'altronde segue un po' il flusso della gaffe del ministro del lavoro Poletti, che si è difeso dicendo: non si può sintetizzare due ore di incontro che ho fatto con gli studenti con quella frase sul calcetto, che d'altronde ha aggiunto è però la metafora delle relazioni sociali. Giocare a calcetto, non so, ci vuole anche una versione per le ragazze o ragazzine, giocare a pallavolo, non lo so, adeguiamoci, ecco, per una questione di rispetto di genere, se non altro. Comunque, la gaffe sui giovani, Poletti sotto attacco, al secondo giorno in cui ci si concentra su questa gaffe. Tra l'altro, racconta Valentina Conte a pagina 4 di Repubblica, si racconta di un Gentiloni che ha avuto un attimo di scoramento per l'ennesimo scivolone dell'ex capo di Lega Coop, il ministro al lavoro Poletti. Dopo la frase sui giovani che espatriano, alcuni dei quali meglio non averli tra i piedi, ha detto Poletti, ora questa sul calcetto. Le precisazioni date più riprese dal ministro del lavoro sia lunedì sia ieri bastano a derubricare la faccenda a lapsus. Il ministro rimane dunque in sella, ma certo c'è l'imbarazzo di Palazzo Chigi, e questo almeno racconta Repubblica. Oh, invece oggi Bersani torna con un'intervista su Repubblica, sempre intervistato da Goffredo De Marchis, a parlare dei rapporti col 5 Stelle, dopo che si è detto di una sua possibile apertura, dei rapporti con Renzi, dei rapporti col governo. Il titolo è questo dell'intervista: Gentiloni deve cambiare la manovra, non sosteniamo il governo a ogni costo. Parla Bersani e a chi dice che voglio un'alleanza con Grillo rispondo: fesserie. sa chi le dice? Quelli che fan finta di non capire. Non si rendono conto che si preparano loro a costruire non un'autostrada ma un aeroporto per i Jumbo per la vittoria dei 5 Stelle. Ma allora chi sono per lei i grillini? Vuole che le dica che sono demagogici? Lo sono. Opportunisti? Sì. Se la cantano e se la suonano? Sì. Solipsisti? Sì. Hanno la suggestione autoritaria della democrazia diretta? Ancora sì. Ma perché sono al 30% nei sondaggi? Dobbiamo chiedercelo. Perché tanta gente anche di sinistra li vota? Perché non sono solo quella roba lì. E chi mi fa la predica, chi afferma che sarei succube dei 5 Stelle, è riuscito a togliere terreno a Grillo in questi anni o no? Io non direi. Sono calati o sono cresciuti? Se il centro-sinistra non fa il suo mestiere, non perda tempo a dar dei populisti al Movimento 5 Stelle, visto che gli porta solo altra acqua. Poi dice appunto Gentiloni cambi la manovra, non sosteniamo il governo a ogni costo e conclude con una spettacolare battuta. Renzi ci accusa di cercare poltrone? Ci rivolgeremo a poltrone e sofà, gli artigiani della qualità. Così Bersani. Caro Mauro Meazza, tu che la poltrona ce l'hai e ben salda. Caro, buongiorno. Caro Alessandro, buongiorno, buongiorno. Guarda, andiamo un po' svelti perché oggi, come sai, sì? Come sai, con il Sole 24 Ore c'è l'Istanbul sui bonus, sugli sconti fiscali per le imprese e quindi abbiamo tante cose da segnalare che c'è, per restare in tema, da fare l'orlo al Po. Ho capito bene sì, il senso della metafora precedente? Dunque, che voleva dire che ce n'è tanto da fare. Ce n'è tanto da fare, esatto. Allora, ti consiglio l'instant di oggi con il Sole 24 Ore. L'hai chiesto in edicola, non venire poi a chiedermelo al bar. No, non lo... Mi nervosisce questa cosa. Ecco. Sì. Non venire a chiedermelo al bar, vai in edicola insieme al Sole 24 Ore. E compro. Cioè, insieme a un biglietto per Platone di domenica scorsa. Un biglietto di domenica scaduto. Scorsa, puoi passare. Oh, ti saluta Penelope. Ti ringrazio molto, presenterò, ricambia. Ti segnalo che su Sole 24 Ore continuiamo a prendere, diciamo, le misure ad aprile, che, come già ti dissi ieri, prendendo prestito le parole del poeta, è il mese più crudele. Quindi la manovrina per l'Unione Europea e il DEF. Allora, si annunciano interventi, ma leggeri, pochino, per alcol e tabacchi, le accise su alcol e tabacchi. Una estensione dello split payment, sai cos'è questo rovesciamento nel pagamento dell'IVA, poi vabbè c'è un po' di spending review, ma quella si sa che è un pochino come il sale, non manca mai, ma attenzione, in futuro anche si immagina di estendere molto più capillarmente l'uso della e-fattura, la fattura elettronica. Trovi tutto descritto oggi nelle prime pagine del Sole 24 Ore. Quando leggerai avidamente le pagine di Finanza e Mercati, come devi fare sempre, peraltro, scoprirai che abbiamo questo derby che comincia proprio dalla prima pagina tra la tua squadra e la mia, ma stavolta sui conti, da una parte i conti appunto dell'Inter, dall'altra forse addirittura una quotazione per la tua squadra, per il Milan. Una delle prospettive di cui si parla, ammesso che poi a furia di caparre si arrivi al closing, come si sa, ma non voglio dileggiare ulteriormente. Invece ti voglio segnalare che per la Fed, per la politica monetaria degli Stati Uniti, si profilano 3 rialzi e non 4. Il mercato l'ha presa bene, ma ti spiega tutto Vito Lops. E poi leggi le pagine scrupolosamente di Imprese Territori, caro Alessandro, perché oltre alla cronaca sulla TAP di cui, o sul TAP di cui riferivi prima, c'è questo progetto, questi risultati del progetto della provincia di Trento che ha inventato il co-manager, per il caso che la libera professionista o la dirigente siano in maternità e quindi abbiamo bisogno di qualcuno che le sostituisca temporaneamente. Leggi perché mi sembra uno spunto interessante. Oh, in ultimo, puoi mostrare per favore la vignetta di Domenico Rosa? Ecco. Oh, perché ecco, mi sembra che questa descriva esattamente la situazione dell'Unione Europea. Tra l'altro, segnala Beda Romano proprio nelle nostre pagine, di nuovo tornano delle tensioni, delle resistenze da parte dell'Austria ad accogliere migranti. Che dobbiamo fare, Alessandro? Mm-hmm. Traffico! Alessandro Mila, il gattino attaccato ai maroni dell'informazione. Oh, evviva! Allora, in tutto questo si è dimesso Minzolini, o meglio, si è dimesso, diciamo che ha presentato la lettera di dimissioni al Senato. Ora il Senato, come in tutti i casi, dovrà votare a scrutinio segreto, tra l'altro, se accettare le dimissioni o meno. E ricordate che c'è un altro senatore, l'abbiamo già invitato, credo che sia la quarta volta in cui ha tentato di dimettersi, è la quarta volta che prova a dimettersi, e il Senato ha respinto per quattro volte le dimissioni. Però Minzolini questo ha fatto. Minzolini si dimise. Ora i servizi sociali al centro di Sant'Egidio. Ieri la decisione su cui dovrà votare l'Aula. Tra l'altro Minzolini sarà nostro ospite tra poco, dopo il giornale radio delle 8, per cercare di capire qual è ora la situazione. Oggi è anche il giorno della Brexit, il giorno della Brexit nel senso che formalmente alle 12.30 Londra avvierà la Brexit, appunto, come abbiamo sentito. Tutti i giornali danno ampio risalto a questa procedura, che è una procedura molto lunga, le tappe sono diverse. Oggi alle 12.30 l'ambasciatore britannico a Bruxelles Sir Tim Barrow consegnerà al Consiglio europeo la lettera con cui il governo di Londra invoca l'articolo 50 dei trattati, vale a dire la clausola che consente l'uscita dall'Unione europea, una procedura che dura due anni con o senza accordo. Dunque nell'aprile 2019 la Gran Bretagna sarà fuori dall'Unione. E poi ci sono le varie procedure ricordate dal Corriere della Sera, pagina 2. Il 9 aprile i 27 stati membri dell'Unione si riuniscono per discutere del ritiro, poi iniziano i negoziati tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea, ci sarà una bozza di accordo sottoposta al Consiglio Europeo, poi ci sarà necessaria l'approvazione di almeno 20 stati con il 65% della popolazione, infine l'accordo viene ratificato al Parlamento Europeo. Questo si arriva fino all'aprile del 2019, quando la Gran Bretagna lascerà l'Unione Europea. Bisogna vedere questo percorso come verrà implementato, però certo oggi alle 12.30 c'è formalmente la consegna della procedura del via alla Brexit da parte della Gran Bretagna. Vi segnalo il reportage di Giampaolo Cadalanu, siamo su Repubblica, pagina 4, da Mosul, Iraq, nord dell'Iraq, dove Cadalanu segue con gli alleati a un passo dalla moschea del Califfo la guerra di liberazione della città dall'ISIS. Racconta Cadalanu dal walkie-talkie del colonnello Hamid, esce una voce concitata: avvistate due autobombe, prepararsi. Gli uomini con la divisa blu mimetica della Polizia Federale non si scuotono, loro sono già al riparo dai muri in una casa abbandonata e sanno che i commilitoni poche strade più avanti hanno una risposta pronta per l'attacco dei jihadisti. Inizia così il reportage di questo, di questa guerra in corso. Si è vicini alla liberazione anche della moschea del Califfo, ma chiaramente Mosul già semidistrutta ora entra nella fase, in questa battaglia che è la più delicata, perché ormai gli ultimi jihadisti cercano di difendersi in tutti i modi, e questo lo trovate su Repubblica. Se torniamo al Corriere della Sera, vi segnalo un Sergio Rizzo che racconta una procedura e una vicenda tipicamente italiana, che vede da una parte la società Rocchetta, titolare di una concessione per lo sfruttamento delle acque, che vuole ampliare la propria fabbrica di Gualdo Tadino in provincia di Perugia, progetto bloccato da un ricorso al TAR da chi? Dalla Comunanza Agraria Appennino, un ente di origine medievale. Avete capito bene, l'ente medievale ricorre al TAR e blocca un progetto da 30 milioni. Questo è quello che racconta Sergio Rizzo in questa storia che viene riepilogata sul Corriere della Sera. l'associazione per il pascolo libero riesumata contro la fabbrica Rocchetta. È un po' la storia, se volete, dell'Italia. Non voglio entrare nel merito della questione, che non conosco, ma viene spiegata da Sergio Rizzo, su chi abbia ragione o no. Merito dell'Italia, è un po' uno spaccato dell'Italia che cerca di bloccare un po' tutto. Lo faccio vedere anche in diretta sulla mia pagina, sul mio profilo Facebook, visto che il buon Lorenzo Nespoli mi sta riprendendo in questi istanti. Allora, vi segnalo anche una pagina sul Savoir Faire. Sul Savoir Faire, sulla verità, si racconta tra manica larga e braccino corto, cioè tra manica larga, cioè il sottoscritto, e braccino corto, Peter Bescapè, la difficile arte di dare la mancia. Eccolo qua, una pagina dedicata alla mancia, dove è obbligatoria, come in America, dove è considerata un'offesa. In Giappone, pensa, in Giappone è considerata un'offesa, mentre in Germania non va mai lasciata sul tavolo. In Italia un gesto abituale solo per una persona su tre, la mancia. Eccola qui, una breve guida per evitare figuracce in giro per il mondo sulla mancia. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali è una pagina di Libero, Maurizio Stefanini, dedicata all'intolleranza della sinistra che si sarebbe prodotta in questo. Non si può pubblicare le immagini di Geert Wilders, leader di destra dell'Olanda, con i suoi gattini, secondo Libero. Gli avversari di Geert attaccano i quotidiani che hanno pubblicato le foto dei gatti del leader del movimento antieuropeista olandese. Vi rendete conto? Ma chi se ne frega!